50 chiamate di donne che sono state violentate. Questa è la stanza della strada. C'è chi è? Là si presente denunciante. Maestani, Alena, nata a Emilia e Ivi, residente, sporge denuncia per il furto subito nel suo appartamento ubicato alla via Rocchetta, numero 21, scala B, quarto piano, interno 9. Allora, signorina, che cosa le è stato sottratto? Tutti i miei sogni, brigadiere. Tutti i miei soldi, in ammontare di? Non i miei soldi, i miei sogni. Ah. Tutti i miei sogni, in numero di quanti erano questi sogni, signorina? Tantissimi, davvero tanti, tutti quelli che una ragazza può avere. La denunciante non ricorda il numero esatto dei sogni sottrattigli. Ora, signorina, mi dovrebbe dire quando è avvenuto il furto. Non saprei dirlo con precisione. Signorina, si sforzi, minuto più, minuto meno, all'incirca, va. Direi negli ultimi 10 anni. Negli ultimi 10 anni, allora siamo nel 2009, meno 10, sì. Dal 1999 al 2009, anno corrente, a codesta denuncia. Ora, signorina, mi dovrebbe descrivere il contenuto dei sogni sottrattigli. Non saprei neanche da dove cominciare. Signorina, cominci da dove vuole, basta che me ne descriva alcuni, quelli più importanti, va. Sicuramente l'amore. L'amore. L'amore è troppo generico. Signorina, sia più precisa. Il colore, le dimensioni, la foggia. Un amore grande. Numero un amore, delle dimensioni pari all'apertura alare della suddetta denunciata. Un amore fatto di piccole cose, così semplici. Suppellettili e piccole cose di valore non quantificabile. È scomparsa la fiducia in me stessa e negli altri. Benissimo. Numero una, fiducia in se stessi. Quella negli altri non la possiamo mettere perché non è di proprietà. Cos'altro? È difficile da dire. Signorina, con calma, faccia mente locale. Tanto qui non ci corre dietro nessuno, anzi per lo più siamo noi che corriamo dietro la gente. Nel senso, voglio dire che abbiamo tutto il tempo che vuole. Un'altra cosa mi hanno rubato, certi piccoli gesti. Mi manca la dolcezza di una mano che ti accarezza i capelli. Una mano che ti sfiora la testa, che ti fa coraggio. Signorina, di per sé la descrizione è sufficiente. Una mano è una mano. Un'altra cosa ti rendi conto che è importante quando non ce l'hai più. Ed è il ricordo di una canzone. Ha presente, brigadiere? E come no? E chi non possiede almeno una canzone? A me, per esempio, piace tanto quella che fa. Se la ricorda, signorina, quella che fa... Piove, guarda come piove, Madonna come piove, guarda come viene giù, piove, piove, piove. A me l'hanno rubata. Bene. La denunciante aggiunge che le sono state rubate, numero una canzone di autore imprecisato. Signorina, la vedo stanca. È stanca? No, possiamo continuare. Signorina, mi faccia capire meglio. Questi sogni, dove li custodiva? In camera da letto, in soggiorno, in un cofanetto, in una cassaforte, dove li teneva? Nel fondo del mio cuore. C'era un allarme? No, mi fidavo. Poi ho cominciato a sentire che si stavano sporcando. Ah, lei questo prima non me l'ha detto, eh? Lei vuol dire che prima che le rubassero i sogni ha notato sopra delle macchie, delle impronte, va? Possiamo dire delle ombre, delle macchie. Ho cominciato a sentire che mi stavano derubando dal profondo, ma non volevo ammetterlo di sentirmi in colpa. Chissà, forse se avesse denunciato prima la presenza delle macchie. Gliel'ho detto, mi fidavo. Mai fidarsi, signorina. Glielo dico per esperienza. Potrei essere suo padre. Potrei avere un bicchiere d'acqua? E come no? Glielo porto subito. Signorina, tenga. Ora è lei che deve aiutarmi a capire certi punti che mi sono poco chiari, vede? Io non vorrei entrare nei particolari, ma ci devo entrare. Questi sogni che sono scomparsi, di cui il più importante è un amore grande, grande come la destra. Insomma, io adesso vi chiedo di raccontare i fatti, la dinamica, esattamente quello che è successo. Cerchi di capirmi, brigadiere. Io non riesco a dirle come sono andate le cose. Che ne sapevo io dell'amore? Pensavo fosse così. Per tutta la vita ti insegnano a mitizzarlo, così cresci con l'idea che l'amore è buono, buono e basta. Non ci sono cartelli che ti dicono di stare attenta, né cari poliziotto pronti a difenderti. Non ci sono istruzioni. Anzi, spesso le regole le fa chi è più forte di te. Le cose sono andate come le ho dette. Una mattina mi sono svegliata e ho scoperto di essere stata derubata di tutti i miei sogni. Di più non posso dire. Mi scusi, ma perché lo denuncia solo ora? Perché mi sentivo in colpa, brigadiere. Ha sospetti su qualcuno? Signorina, io capisco che non è facile, ma se lei è qui vuol dire che i suoi sogni li vuole ritrovare, no? Ci vorrà del tempo. Non è come ritrovare un'automobile. Lo so. Ancora un momento di pazienza, abbiamo quasi finito. Sua deposizione e metta una firma in calce. Legga attentamente, sa. Una volta firmato il verbale, è come se lo avesse scritto lei stessa. In data odierna, la denunciante, utilizzando un linguaggio sibillino, dichiara di aver subito ripetutamente atti carnali a scopo di libidine dal di lei padre e dichiara altresì di esserne stata profondamente danneggiata nel fisico e nel morale. Una sera la mamma era fuori per il lavoro. Lui è scivolato nella mia stanza a piedi nudi. Shh, non parlare. Hai paura del buio, eh? Anche io ho paura a stare da solo. Sei una bambina paurosa. Posso tenerti compagnia? Cominciato a baciarmi le dita una dopo l'altra. Era una cosa dolce, mi piaceva. Pensa, dico, quest'uomo grande, serio, sicuro di sé, che viene a cercare la compagnia di un essere insignificante come me, perché allora mi mangiavo le unghie, avevo i capelli strizzati in una trecciolina e un seno enorme di cui mi vergognavo. Sei bella. Mi ha detto che ero bella. Non me l'aveva mai detto nessuno. Pensavo che ci saremmo addormentati così nella tenerezza di un abbraccio. Lui invece è montato sopra di me con tutto il suo peso, mi ha strizzato, lacerato, soffocato. Io ho gridato, mi ha dato uno schiaffo, mi ha coperto la faccia con un cuscino. Io credevo di essere morta, morta. E invece non ero morta, ero ancora viva, solo che non ero più io. Ero un'altra cosa che non conoscevo. Se parli ammazzo tua madre e tua sorella. Andavo in giro come una pestata. Mi nascondevo dentro giacche e cappotti. Se qualcuno mi toccava saltavo. Solo di mia sorella non avevo paura. Mia madre era cieca e sorda. Che cosa ha la bambina? Non mangia la bambina? Sarà la pubertà? E domandava lui. Cos'ha la bambina? Non sta bene la bambina? Lui alzava le spalle e continuava a venire nel mio letto. Per 2 anni ha continuato a venire nel mio letto. Sei la bambina di papà? Vengo a farti compagnia? Io chiudevo gli occhi e stringevo i denti e aspettavo che finisse. Poi una sera, mentre facevo il bagno, ho sentito la sua voce che diceva a mia sorella di soli 10 anni. Hai paura del buio? Vengo a farti compagnia. Sei la bambina di papà. Senza neanche mettermi la vestaglia sono uscita fuori e con l'asciugamano intorno al corpo sono andata dalla mia mamma e le ho detto tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, le ho detto tutto. E lei mi ha dato uno schiaffo. Della notte. La paura mi fa chiudere gli occhi, mi secca la lingua, mi prosciuga la bocca. La paura ti accelera i battiti, offusca la vista, non ti fa respirare. La paura è una vertigine, non ti fa sentire il pavimento la paura. La paura ha una bocca grande, mangia i piedi, non ti fa scappare. Noi vorremmo essere senza paura, però ce l'abbiamo sempre. Grandinate di colpi di marito, compagno ex. Mia moglie è un'isterica pazza. Racconta balle. Ma dire in giro che la picchio, una picchiata, cose del genere. Beh, io dico che una donna ha molti modi per farti diventare pazzo furioso, eh? Sì, vabbè, qualche volta l'ho dato uno spintone, ma questo non è mica picchiare, no? In fondo in tutte le coppie ci sono degli attriti, degli scazzi in certi momenti. Tu scoppi dalla mattina alla sera, torni a casa. Stanco di tirare la carretta, di farti il culo. Sì, per lavorare, no? Per la tua casa, per tua moglie, per i tuoi cavoli. Tu torni a casa, a sera, come un coglione, cercando tenerezza per lei. Cercando sesso, per parlare chiaro, perché questo significa formare una nuova coppia, no? Una vera coppia. Allora io vado da lei e le dico, scusa, cara, ti ho svegliato. E lei mi rifiuta. E io mi incazzo. Perché poi dopo va a finire che entri dentro una cosa che sei costretto a dargliele. Diceva che una donna come me non l'aveva mai incontrata, che non era la sua altezza. 4-4, amore matto. 5-5, l'amore vince. Lui era attento, premuroso, gentile. Io mi sentivo amata pazzamente. 6-6, il tuo amore pensa a lei. 7-7, corna perfette. 8-8, amore cotto. 9-9, il tuo amore vuole le prove. Tutto. Lui lavorava sempre. Lavorava giorno e notte, era ossessionato dal denaro. Era sempre scontento, mi criticava in tutto quel che facevo. 1-1. 1-1. Senza di te non so nessuno. Era diventato geloso, Non voleva che vedessi i miei amici, le mie amiche. Non voleva che andassi all'università, allora ho smesso di studiare perché era un tale dispiacere che non ne valeva la pena. Due, lascia andare le amiche tue. Non voleva che vedessi mia madre. Mi controllava sempre. Quando entravo, quando uscivo, cosa compravo. Telefonava tutte le ore per vedere se ero in casa. 3-3. 3-3. Lui dice, io lo so, cosa ci vuol per te. Poi quando rientrava, erano calci, pugni. Poi piangeva, mi chiedeva scusa. 4-4. Quattro, quattro! Lui dice puttana solo perché è un po' matto. Io non mi sentivo più sicura di niente. Ho smesso di uscire, di vedere gli amici. 5-5. 5-5, non fa troppo male se la gola mi stringe. Volevo andarmene, ma mi sentivo inutile. 6-6. Lui mi costringe anche se non vorrei. E lui diceva, ma dove vuoi andare, disgraziata? 7-7. Culo e tette, donna a fette. 8-8. Una spinta e un pugno, il mio timpano è rotto. 9-9. Sul mio corpo non cercate le prove. 'Io ti voglio bene, come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare. Mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei, nei miei pensieri, in ogni istante della mia vita. Io ho bisogno di te, come la barca ha bisogno del mare per poter andare. Secondo lei? Io non l'ho mai detto, però non contesto. Se è il marito che guadagna, la moglie deve stare sottomessa. Beh, se è lui che lavora, chi paga? Lei? Non mi sembra, no? Il marito è il capo famiglia, quindi la moglie deve obbedire. Beh, è sempre stato così, no? Mio padre faceva così, mio nonno faceva così. È sempre stato così, allora che problema c'è? La moglie deve avere rapporti sessuali con il marito anche contro voglia. No, dico, se l'ha sposato, avrà qualche diritto anche lui, no? O sbaglio? Se un uomo picchia la moglie, lei sa perché. Vero? Lo dice anche il proverbio cinese. 4.000 anni di civiltà. Vabbè, allora, vedrai che ci prende. La moglie non deve contraddire il suo marito. Se vuole viverci insieme, bisogna fare anche questo. Se una donna ha dei soldi, perché dovrebbe sopportare la violenza? Punto. È quello che dico anch'io. Le botte sono un modo del marito di preoccuparsi per la moglie. Ma chi l'ha scritto questa roba? Ma ancora con questi discorsi. Ma stiamo ancora a perdere tempo con questi discorsi. Ma per favore! Ma per favore, basta, basta, finiamola qui! Ma finiamola qui, basta! Ma per favore! Mi voglio bene, come nella mia vita non ho creduto mai. Così profondamente che ho paura di me. di questo smisurato amore che adesso provo per te. È stanco. Io ti desidero. Un desiderio nuovo che mi tormenta. È stanco e stressato. Talvolta mi domando com'è possibile. Ha detto che non lo fa più. Mi debba risvegliare, andare e ritornare. Ha detto che gli dispiace, non lo fa più. Davanti a me, negli occhi miei. Per forza è stressato con tutto quel che ha passato. Io ho bisogno di te, come la barca ha bisogno e di poi... poter andare. La primavera ha bisogno del sole. Poi la gente non nasce cattiva, no? Un bimbo sulla mano della compagna. Sono io che dovrei essere più paziente, più comprensiva. Io... ed io di te, sempre vicino a me. Io parlo quando non dovrei parlare. Perché hai mangiato la Nutella? Non devi mangiare la Nutella. Diventi grasso. Tu non vuoi diventare grasso, no? No. E allora perché la mangi questa cazzo di Nutella? Perché metti lo scotch? Lo scotch? Quale scotch? Ti sembra che il barattolo abbia lo scotch? Mi è sembrato che hai messo lo scotch. Io non ho messo nessuno scotch. Sei stupido o che cosa? Sei stupido o che cosa? Sei stupido o che cosa? Sei stupido o che cosa? Sei stupido o che cosa? C'è lo scotch? O me lo sono inventata? È come camminare sulle uova. Io non lo so dov'è che sbaglio, quand'è che sbaglio. Se parlo troppo, dico sì quando dovrei dire no. Le parole non possono ferirmi. E allora perché mi sento così male? Quando una persona è insicura, di lei si può fare qualsiasi cosa. Se lui ti corteggia e vuole andare troppo veloce, questo vuol dire pericolo. In pubblico, questo vuol dire pericolo. Se cerca di isolarti dagli amici, dalla famiglia, questo vuol dire pericolo. Se hai l'impressione di camminare sulle uova e di non capire i suoi improvvisi cambiamenti di umore, questo vuol dire pericolo. Se lui recita come se niente fosse successo dopo un episodio di violenza, questo vuol dire pericolo. Se ti incolpa per quello che è successo e minimizza il suo abuso, questo vuol dire pericolo. Se mostra un'intensa, incontenibile gelosia, questo vuol dire pericolo. Se ti controlla ogni tuo movimento, questo vuol dire pericolo. Pericolo, pericolo. Pericolo, il primo segno di dissociazione quando tu inizi a domandarti se tutto quello che ti accade è veramente successo. Per confermare quello che ti succede, cerca testimoni, comincia a scrivere e metti la data. Che cosa sto facendo di sbagliato? Sarebbe meglio che tu ti domandassi che cosa sta sbagliando lui. Non so cosa succede, se mia moglie sta con un altro, non lo so. Hai qualche indizio? Una prova? No. E allora? Perché lo dici? Perché è diversa. Lo vedo, glielo leggo negli occhi, lo noto in tutto, sulla faccia, in tutto. È diversa, eh? È diversa. E in che cosa è diversa? In tutto. Parla di amore e di stronzate tutto il giorno. È più bella, più elegante, è più tutto. Ma non mi avevi detto che aveva trovato un nuovo lavoro all'università? Allora è giusto che si vesta bene, no? Anche tu, quando vai al lavoro, ti vesti bene. No, no, guarda, è diverso. È proprio tutta un'altra cosa, perché io lo faccio per lavorare e non per stare tutto il giorno a parlare di stronzate, di altre stupidaggini. Io parlo di cose normali, di cose di cui parlano tutti. È così. Che cos'è che ti dà più fastidio? Che si prenda cura di sé, che parli di letteratura, libri? Io non riesco a capire perché debba andare in quell'università del cazzo quando non la pagano neanche. Se non la pagano, perché ci va, eh? Allora lo fa per provocarmi, è per questo che lo fa. Sì, per provocarmi lo fa. Forse lo fa perché le piace. Sì, le piace, rompermi i coglioni le piace. Lo fa per provocarmi, lo sa che mi irrita e lo fa per provocarmi. Ancora non mi hai detto che cos'è che ti fa arrabbiare. Un giorno o l'altro lei incontra uno di quelli che va all'università, si mette a parlare delle solite stronzate. Se lei si innamora, che cosa succede, eh? A me che cosa mi resta? Perché ti dovrebbe lasciare? E perché dovrebbe restare? Perché dovrebbe restare con uno come me? Di che cosa posso parlare io? Di ordinazioni, di fatture? Parlo di questo io? Che cosa le offro? Una paga di merda? Un appartamento di merda? Vacanze con i miei genitori? Perché dovrebbe restare con uno come me? Perché? Perché? Perché? Ma forse perché la ami? Perché la ascolti? La incoraggi? La rispetti? E non la minacci, non la insulti, non la picchi, non la umili. Gli uomini lo fanno perché quando vedono una bella ragazza con tutta quella roba che esce fuori, che sballonzola, sì, dalle scollature, dalle minigonne. Perché noi uomini siamo di sangue caldo, non siamo mica delle checche. Che un uomo è un uomo e gli ormoni sono ormoni. Lo sanno tutti che una ragazza quando ti guarda in quel modo, sì, insomma, sì, vuole dire che, insomma, una donna quando dice forse, vuole dire sì, vuol dire che ci sta. Anche a lei piace. Quella dell'altro giorno, ad esempio. Quella. Quella se l'è andata a cercare. No, dico, cosa ci faceva a mezzanotte nel parco? Lo sanno tutti che ci sono gli ubriachi. E poi? Perché era sola? Suo marito dov'era? Ah, ecco appunto. Il marito non ce l'ha. Analizziamo i fatti. Si sarà fatta due canne, magari si era bevuta una birra. Sarà stata lei, eh? Sarà andata dai ragazzi, avrà fatto qualche allusione. Magari voleva essere pagata. Ma l'avete vista come va in giro a 35 anni vestita come una ragazzina, con gli shorts, la maglietta per far vedere quelle tette? Ma dai, su! Sarà stata strafatta. E poi chi può dire che cosa è successo nel parco? In quanti le sono andati addosso? Se le sono andati addosso. E poi io dico, perché una donna deve uscire da sola di notte? Se una donna esce da sola di notte, se la va a cercare, no? Aveva cose dentro, uova forse. Io me lo ricordo benissimo, avevo 8 anni. Non lacrima, mi diceva, allora non sente male, non sente dolore. Io guardavo e provavo una specie di piacere. Alla fine quello ha preso la lucertola tra le dita e ha detto, tieni, è tua, te la sei guadagnata. E io passavo di lì per caso, guardavo e basta. Ho respirato grosso, giù al fiume, tra i cespugli, a caccia di anatre selvatiche. Ho respirato grosso in montagna, tra i rovi, a caccia di lepri. A sparare però era sempre mio nonno. Io non sparavo, tenevo i cani e basta. Una volta mi sono pisciato addosso da grande, avevo 10 anni, un piscio bianco appiccicoso. Non è il piscio quello! Rideva mio nonno. A me non è venuto da ridere. Una volta appena un mese fa, ho respirato grosso tra i rovi e mi sono pisciato addosso da grande. Nascosto dietro un cespuglio, ai giardinetti, vicino alla fermata della metro. Mentre tre con una ragazza, insomma quei tre erano sopra quella ragazza. Ma io non ho fatto niente, io passavo di lì per caso, io guardavo e basta, non ho fatto niente, loro facevano. Io me ne stavo nascosto nel buio, tra i rami bassi e le foglie. E il mio respiro che diventa sempre più grande. E lei lo sente. Non può non sentirlo. E anche quei tre che sono sopra lo sentono. Chi c'è là dietro? Eh? Sta zitto, chi c'è là dietro? Io non mi muovo, non scappo, non dico niente. E loro ricominciano. Il mio respiro è sempre lì, a covare tra i rami. E lei lo sente vicinissimo. Non può non sentirlo. Quando ti nasce un figlio, ti cresce un dolore qui alle braccia. Chili e chili di dolore da sorreggere perché non si schiantino a terra. Quando ti sventrano una figlia, senti che ti si spezzano le giunture, i polsi e le ginocchia. E in quelle fessure vanno a rintanarsi tutte le parole. Allora che parli a fare? Mi cascheranno le braccia un giorno o l'altro, dicevo. Invece sono rimaste lì, attaccate al busto, alle spalle, anche dopo, quando è caduto giù tutto, dentro un pozzo, con mia figlia dentro, che ci voleva un braccio di gru per tirare su tutto quello che era rimasto. Mi servivano le braccia per accarezzarla, per togliere il sangue, per fasciare le ferite che guarire guarirai, guarire guarirai. Ci deve essere un modo per tirare via tutto questo male. Ci deve essere un modo. Che devo fare ancora? Che posso fare? Se non lo sai tu, mamma, se non lo sai tu, schifo, schifo, sono le donne oggi che fanno schifo, e lo sa perché parlo io, lo sa, e no che non lo sa, perché quello, sì, quello sul banco degli imputati, quello è figlio mio, si no sa quanto me ne fregava a me, mio figlio non ha fatto niente di male, non l'ha ammazzata sta ragazza, si è andata a divertire, è certo che gli piaceva pure a lei, nonna, si è divertita. Se no non ci andava con mio figlio, che lui è sposato e c'è pure un ragazzino. E quella, lo sapeva. E che gli telefonava a fare sul lavoro per rompergli le scatole? Come? Se ci aveva una moglie e un figlio, perché ci andava? E perché tutti lo fanno, no? E che è il primo che lo fa. Suo marito, se ce l'ha, non lo fa. E mica lo viene a dire a lei, no? Tutti i mariti sono così, perché oggi sono le donne che fanno schifo. Perché fanno schifo? Ma signore, con tutte le prostitute che ci stanno, un uomo che deve fare? Se gli capita che gli dice, vattene. Tutti gli uomini sono così, perché oggi sono le donne che si buttano addosso agli uomini, ne vedo tante io. E questa che vuole rovinare mio figlio, era più di un anno che ci girava attorno. Faceva finta che andava a lavorare, invece andava, quello. Quella andava a fare, è uno schifo oggi, signora o signorina. o quello che è. Per ritirare la denuncia contro suo marito. Certo, lei non c'entra niente. Ha già due bambini ed è incinta del terzo. Se lui va in galera, per lei è la fine. Sì, sì, sì. Sì, bisogna mettersi d'accordo, come per gli incidenti. In fondo io non ho troppe ammaccature. Sì, sono giovane. Avrò ancora dei figli. Bisogna capire. Capire. Avere pietà. Pietà. E mi dica, signora, ha avuto pietà di me suo marito quando mi ha messo a quattro zampe? Acciucciare il suo cazzo moscio che non voleva diventare duro. Mi chieda se mi è piaciuto affondare la faccia nei suoi peli e sentire un odore. Mi dica, signora, si è mai fatta mettere un dito nel culo contro voglia, con dolore, con vergogna? Lo sa, signora, che io e lei abbiamo qualcosa in comune? Il cazzo di suo marito che mi è venuto in faccia con un odore appiccicoso che... Ma lei lo conosce bene, quell'odore? È incinta di quell'odore. Ma io in fondo non ho troppe ammaccature. Un bel milione per ritirare tutto. Sì, il mio fidanzato non mi tocca più. Io ho paura a toccarlo. Quando mangio mi viene da vomitare, ma non ho troppe ammaccature. Faccia così, signora. Si prende i suoi soldi e vada via, che è meglio per tutte e due. Signori giudici, egregi colleghi, leggo dagli atti del processo. Dopo il primo si presentano anche questi tre individui, tutti e tre completamente nudi, i quali uno dietro l'altro, con sveltezza, signor Presidente, hanno abusato di me, consumando un rapporto carnale completo, per due volte ciascuno a brevissima distanza l'uno dall'altro. Tutti e quattro, prima di approfittare, mi hanno costretta a prendere in bocca il loro pene per essere stimolati nell'amplesso. Signori, io parlo in latino per alludere agli organi sessuali. Una violenza carnale con fellazio può essere tranquillamente interrotta con un morsetto. Passa immediatamente la voglia a chiunque di continuare, no? Un morsetto. E allora dov'è la violenza? Tutti e quattro avrebbero incautamente abbandonato il proprio membro nella bocca della loro vittima, una parte del corpo dell'uomo che per antonomasia è considerata come la più delicata e su cui, mi si consenta, il coito orale si compie con una prestazione tecnicamente qualificata e non c'è attività tecnica se non c'è volontà. E allora? Allora è la femmina che prende. È lei la parte attiva. Sono loro passivi, inermi, abbandonati nelle fauci avide di costelle. E ancora, che cosa pratica la signorina qui con l'imputato, di cui era e fu l'amante e l'amica amorosa? Si fa praticare il cunnilingus. È il suo amico amoroso che si inginocchia davanti a lei e la bacia teneramente in quella che il divino Gabriele D'Annunzio, signor Presidente, chiama come la seconda e più tenera bocca da cui sugge il piacere di lei. E allora, che cos'è il cunnilingus? È più che l'amore, è l'adorazione sessuale e tende al piacere della femmina. E chi la pratica? Il violentatore. È il violentatore che si inchina, bacia, adora. Ecco, e poi tutto finisce sul piano delle violenze. Signori giudici, come eserciterete il vostro rigore intellettuale sulla base di queste menzogne e di questo interesse? Concludo, signor Presidente. Devo purtroppo prendere atto che la difesa dei violentatori considera le donne con il massimo disprezzo, come meri oggetti. È sempre la stessa difesa che sento. La ragazza stuprata è una puttana, ma per carità, siamo moderni, non c'è niente di disdicevole. Eppure nessun avvocato si sognerebbe di impostare una difesa per rapina così come si imposta una difesa per violenza carnale. Nessun avvocato nel caso di quattro rapinatori che con violenza entrino in una gioielleria e ne portino via le gioie, nessun avvocato si sognerebbe di suggerire ai rapinatori: dite che il gioielliere ha un passato poco chiaro, che fatti di ricettazione, che lucra, che evade le tasse. Nessun avvocato imposterebbe un processo in questo modo, perché infangherebbe soltanto la parte lesa. Allora io mi chiedo come mai, perché se invece di quattro oggetti d'oro l'oggetto del reato è il corpo di una donna in carne ed ossa, perché ci si permette di fare il processo alla ragazza? Perché è questa la prassi costante. La vera imputata è la donna e solo in questo modo si ottiene che non si facciano più denunce per violenza carnale. In quella casa c'erano quattro uomini. Lei era sola. Non ha fatto abbastanza resistenza. Certo, ci si può ribellare e dare un morsetto e rischiare la vita. E l'avrebbe rischiata. Cosa succede alle donne che cercano di ribellarsi? Lei era sola. C'erano quattro uomini. Affido a voi la giustizia, anche per tutte quelle donne che non hanno più voce per chiedere giustizia. La Corte stabilisce che il danno subito dalla ragazza venga risarcito con lire 2 milioni. I quattro imputati di questo processo per stupro, pur condannati, ottengono il beneficio della libertà provvisoria. Libertà provvisoria. Ragazza stuprata per un'intera notte da un branco di 8 adolescenti. Il sindaco dà 5.000 euro per la difesa di ogni ragazzo. Il migliore avvocato per la difesa di ogni ragazzo. Bravi ragazzi che meritano una buona difesa, pagata coi soldi pubblici. Studentessa stuprata per ore. Accusati due amici. Si organizza un concerto di beneficenza per raccogliere fondi. Per i giovani accusati di stupro. I due bravi giovani. Un bel concerto per dei bravi giovani. Lui schiaccia la faccia di lei sulla piastra del fornello accesa. Accusato, processato, assolto in primo grado. Lei, trovata ai piedi del fornello in coma. Potrebbe essere una caduta accidentale. Lei, la faccia sfigurata. Potrebbe essere una caduta accidentale. Lei, in coma. È certamente una caduta accidentale. Assolto. Assolto. Assolto, assolto per non aver commesso il fatto. Ti stringerò. So big, so big and strong, the man I love, and when he come my way, I do my best to make him stay. Maybe I will meet him someday, maybe someday, maybe God. donna decide di parlare è perché è arrivata al limite. Ogni donna ha il suo limite. Ci sono donne che prima di parlare, prima di arrivare al limite, passano anche 30 anni. Una volta le nostre nonne dicevano: è il mio destino, lui lavora, io no. Adesso è diverso, ma c'è ancora una paura incredibile a dire che tuo marito ti picchia. È più facile dire: forse domani sarà diverso, forse domani cambierà. Quando ho iniziato a lavorare al centro antiviolenza, io le donne me le volevo portare tutte a casa. Il primo colloquio che ho fatto, mi aspettavo che arrivasse una povera disgraziata, una diversa da me, una senza mezzi. Invece è arrivata una docente, una donna colta, benestante, che lavorava all'università. Suo marito la riempiva di regali, viaggi all'estero, baci e botte. Uno schiaffo, un bacio. Un bacio, uno schiaffo. Quando c'è violenza psicologica è difficile capire che la pazza non è la donna, ma forse lui. È difficile capirlo quando sei innamorata. È un fallimento ammettere che il padre dei tuoi figli ti picchia. Quella volta al mio primo colloquio io ho sbagliato tutto. Ho detto tutto quello che non dovevo dire. Mi sono messa nei suoi panni. E l'emotività che frega. Bisogna soltanto ascoltare. E questa, la molla che fa parlare una donna, una persona con te. È questo che fa sì che una donna si fidi di te. E dico, fidarsi di una persona non è poco. I centri antiviolenza hanno tutto. Le case, l'avvocato, lo psicologo. Ma prima di tutto bisogna capire da dove la donna vuole uscire, quale passo si sente di fare. Intanto bisogna considerare che lei lascia un sicuro per un insicuro. E tu puoi aiutarla ad aprire tutte le porte, ma è lei che ha le chiavi in mano, è lei che fa il passo. E a quelle donne che magari stanno subendo le tue stesse cose e non hanno il coraggio di reagire, adesso tu cosa sentiresti di dire? Che loro sono delle persone, sono degli esseri viventi. E non è vero tutto quello che magari sentono dire dall'altra persona. Che non è vero che non sono una nullità. Siete veramente delle cose, delle persone stupende, anche perché ve ne sono portato tanto. Abbiate il coraggio di tirarvi fuori. Non aspettate che vi facciano cose come un maestro.